Ma nelle foto che sono state pubblicate da Libero mi sembra che ci siano anche delle altre cose. Tu hai in mano forse un bastone o qualcosa? No, forse no. Hai i guanti? No, me l'hanno già fatto notare, ma è perché la prospettiva che è messa un po' strana. E... No, se ci fai attenzione non c'è proprio niente. Ma... Non hai niente in mano, non hai tirato nulla. Non hai tirato nulla. I violenti, in quella manifestazione i violenti sono stati i poliziotti, non i manifestanti? Eh sì, è abbastanza evidente. Cioè voi non avete fatto nulla? C'è la gente che tira le bombe carta, le molotov, chi sono? Scusami. Non so, io non ho tirato nessuna bomba carta. No, d'accordo, tu non hai tirato, dici di non aver tirato nessuna bomba carta. Non aveva l'impermeabile blu lei, no? Però ci sono quelli che l'hanno tirata le bombe carta contro i poliziotti, si vede chiaramente, qualcuno se le ha portate queste bombe carta. Non sarà mica giustificata una cosa del genere, o no? Nel senso, io in quel momento avevo altro a cui pensare, dovevo pensare a scappare da... La polizia che era inferocita. Sì, no. Io la violenza l'ho vista lì, l'ho vista nei poliziotti che manganellavano la gente a terra. Sì. E quel poliziotto che ha pestato Deborah. Sì, cioè tu la violenza degli altri, la violenza degli altri non l'hai vista, la violenza dei manifestanti. Ma nel senso, paragoniamo un attimo le due cose. No, ho capito, ma qualcuno le bombe carta l'avrà tirate, cioè se le portate dietro le bombe carta a una manifestazione? Io questo ti chiedo, è legittimo portarsi dietro delle bombe carta, delle molotov, i caschi, i cosi, le aste o no? Oppure è legittima difesa secondo te? Io lo ripeto, io bombe non le ho viste, non le ho sentite, io avevo davanti un nucleo di poliziotti che mi picchiava e ci avevo pensato a quello. Dovevi pensare su quello, non hai sentito nessuna bomba, nessuna cosa, non hai visto nessuno che tirava una bomba. Ho sentito le manganellate in testa. Hai sentito le manganellate. Secondo te quel poliziotto è da mandare in galera per quello che ha fatto a Deborah, per aver calpestato e per averti picchiato? Sì, sicuramente, poi non ci andrà, ma la giustizia, se ci fosse una giustizia in questo paese quel poliziotto andrebbe in galera. Ma come lui, quelli che hanno gestito la piazza quel giorno, che hanno lasciato una via di fuga contro di 20.000 persone, che non gli hanno dato il tempo di riprendere il percorso tranquillamente, e che hanno manganellato gente a terra, hanno Ma secondo creato te, una calca assurda. Come li definisci i poliziotti? Sono i tuoi nemici quando vai alle manifestazioni? No, non sono i miei nemici quando vado alla manifestazione, i poliziotti. I poliziotti sono... Quel giorno sono stati degli animali, li definisco così. Va bene, grazie, grazie. Presto, grazie. Ciao, ciao, ciao. David? Finito? Finito, ci sentiamo domani? Da qua. Abbracci, ciao, ciao a tutti. Ma ve ne dovete annare? Ma perché? Ma se ve dica annate, ve ne annate. Ma perché no? Se ne devo annare? E bisogna ve ne annate! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. D'accordo? Radio 24. La passione si sente.